Sekhirene è un problema fortemente sentito da chi appartiene a Cristo, sono le divisioni all'interno della Chiesa di Dio. Per questo migliaia di credenti pregano ogni giorno e altri vivono tutta la loro esistenza con il profondo dolore che la tunica di Cristo si è divisa. E questo è comprensibile. In effetti, Sekhci è un periodo nel quale si cerca disperatamente, e a ogni costo la pace e l'armonia è. Proprio in questo momento, soprattutto dopo l'11 settembre del 2001. La pace e l'armonia è invocata a ogni piè sospinto, tanto che il mondo, cioè le persone non timorate di Dio, partecipano alla marcia della pace, convocano assemblee perché ci sia la pace in tutto il nostro pianeta. In questa delirante atmosfera è normale che l'ambito religioso sia risucchiato da questo vortice, perciò uno dei temi più trattati in certi ambienti religiosi è proprio la necessità di essere tutti uniti in Dio. Da un certo punto di vista il desiderio di essere uniti, di non avere guerre teologiche, di cercare l'unità dei cristiani, è un'ambizione più che onorevole, ma a mio avviso è un'utopia da mettere da parte. Con tutto il mio cuore vorrei che coloro che si definiscono cristiani non avessero divisioni di alcun genere. Vorrei che tutti potessero camminare a braccetto e con un solo cuore lodare Dio, ma mi rendo conto che sarebbe come voler amalgamare il ferro con l'argilla. Ci sono alcuni elementi che impediscono ai figli di Dio di andare d'accordo, alcuni buoni, altri meno buoni, altri ancora che non dovrebbero esserci, ma sono comunque elementi che impediscono ai figli di Dio di vivere in armonia gli uni con gli altri. Il primo di questi elementi di divisione all'interno della Chiesa di Dio è l'amore, poi vi è l'elemento dell'ignoranza, e infine vi è un terzo elemento che non dovrebbe esserci per nessun motivo, ed è il peccato. A dire il vero, questi tre elementi costituiscono la divisione in ogni altro settore dell'esistenza dell'uomo, come il matrimonio, l'ambiente familiare, ogni ambiente sociale, religioso, politico. Perciò non vi è nulla di nuovo se non quello di prendere coscienza del motivo per cui i figli di Dio non vanno d'accordo. Quando si è data una spiegazione non cambia certamente nulla, ma sta di fatto che almeno questa presa di coscienza aiuta a star meglio. E può essere una buona medicina per sollevare chi giorno e notte si è tormentato da questo problema. Il primo elemento di divisione nella Chiesa di Dio è l'amore. Detta così sembra il più grande insulto al messaggio evangelico o al valore attribuito al significato dell'amore, ma ancora una volta, se vogliamo capire la realtà della vita, dobbiamo scostarci dai luoghi comuni del nostro pensiero. Noi siamo abituati a considerare l'amore come un atteggiamento che sempre unisce, condivide, che sempre approva, che cerca sempre l'armonia, la pace. Insomma, tutto ciò che non divide. Eppure, anche se nulla toglie a questo aspetto dell'amore, il vero amore disunisce anche, separa, divide. E questo lo vediamo prima di tutto in Cristo Gesù, colui che è l'amore incarnato. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Matteo 10:34-35. Noi pensiamo di amare anche mentre compiamo il male, ma Dio è amore in quanto essenza e in opera, perciò in Lui non vi è alcun pensiero o atto che non corrisponda all'amore. Così il Dio dei cristiani è un Dio che unisce, ma altresì coloro che lo amano sono chiamati a separarsi dai malvagi e non partecipare alle loro ingiustizie. Il Dio trino dei cristiani è un Dio che ama, ma altresì odia il peccato, e i peccatori che di proposito lo rifiutano, invitando i suoi figli a imitarlo. L'Eterno prova il giusto, ma l'anima sua odia l'empio, e colui che ama la violenza. Salmo 11:5. Voi che amate l'Eterno odiate il male. Salmo 97:5. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro guerra. Proverbi 27:27. Anche senza toccare l'argomento Dio, perché potrebbe essere un rifugio psicologico e una scusa puramente filosofica, il vero amore che separa e divide lo si nota anche nell'esistenza umana. Un giovane nubile è libero di frequentare tante ragazze e allacciare con esse dei rapporti più o meno seri. Ma una volta che ha scelto di amare una ragazza, se l'ama veramente, automaticamente dovrà rifiutare di uscire regolarmente con le altre. Forse proprio perché non si è compreso bene il significato della parola amore, oggi uomini e donne allacciano anche con altri lo stesso rapporto che hanno con il proprio coniuge. Essi pensano che amare significhi godere gli stessi piaceri e diritti con tutti. Ma amare significa anche rifiutare, dividere, separarsi. Così è nel campo della fede. Chi ama? Dio desidera separarsi dal male, da ciò che non è conforme al volere di Cristo, e così per amore il credente si separa da chi secondo lui non cammina secondo la volontà di Dio. La volontà di Dio è un elemento di unione, ma anche di separazione. E un elemento di unione, quando vi è una stessa mente, un solo animo. È elemento di separazione quando le opinioni sono discordanti. Così, un conduttore di una chiesa che ha un orientamento teologico insegna per amore ciò che comprende, e sempre per amore invita, e a volte obbliga, le pecore a separarsi da chi la pensa diversamente. Chi ama separa, come quel genitore che rifiuta al figlio di andare con dei compagni che si drogano. Il figlio può prendere tale divieto come un atto di mancanza d'amore, e solo quando sarà grande capirà quanto amore vi era nell'atteggiamento del divieto. Una seconda ragione per cui i figli di Dio non vanno d'accordo è data da una limitata comprensione della parola di Dio, e cioè del volere di Dio. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, e la conoscenza sarà abolita perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. 1 Corinzi 13.89. Che i figli di Dio non siano onniscienti, tutti lo accettiamo, che abbiano una limitata comprensione della parola di Dio è fuori discussione, ma ritenere che la propria comprensione della parola di Dio possa essere limitata o addirittura errata è un atteggiamento che pochi credenti hanno. Il dubbio è certamente un virus letale, ma a volte può essere la migliore medicina per un buon rapporto fraterno. L'intransigente in parole e atti è generalmente colui che non ammette altre vie o opinioni. È colui che è convinto che le sue convinzioni siano giuste. Da un certo punto di vista, essere convinto delle proprie convinzioni è buono, fino a che queste non si possono mettere in discussione. È vero che ci sono verità che non possono essere considerate diverse, come per esempio la sussistenza di un Dio in tre persone, la divinità e l'umanità di Cristo, la salvezza per grazia, mediante la fede personale, ma occorre accettare che in tanti ambiti, come soprattutto quello morale, vi sono delle opinioni personali che non si possono imporre a nessuno. Anche al tempo dei primi cristiani vi era il problema di andare d'accordo, e Paolo saggiamente scrisse: «Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni». Romani 14.1. Così, un motivo di disaccordo sono proprio quelle opinioni che nascono dalla lettura della parola di Dio. Uno interpreta la scrittura secondo la sua cultura, la conoscenza che ha nell'ambito culturale e linguistico del popolo di Israele. Non è possibile fare diversamente. Alcuni si appellano allo Spirito Santo, ritenendo che la terza persona della Trinità sia in grado di guidare correttamente il credente in tutto, anche senza l'ausilio di un'appropriata conoscenza della volontà di Dio, e proprio per questa visione anche questa tra l'altro che separa i credenti, porta certi figli di Dio a commettere le cose più assurde. Siccome Mosè ha diviso il Mar Rosso, siccome Giosuè ha fermato il sole, siccome i tre amici di Daniele sono passati attraverso il fuoco, allora questi credenti ritengono che per fede possano compiere ogni cosa. E se non succede, secondo loro, è perché sono venuti meno nella fede. Così credono e così insegnano a danno di chi è debole nella fede. Un terza ragione per la quale i figli di Dio non vanno d'accordo è dovuta alla mancanza di comunione con Dio. Una simile dichiarazione potrebbe essere fatta da qualsiasi maldicente, perché, in fondo, come è possibile dimostrare chi non ha comunione con Dio? Eppure la parola di Dio lo dice espressamente. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, e che vi annunziamo. Dio è luce, e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1:5 a 7. Secondo l'Apostolo Giovanni, la comunione esistente tra i credenti è condizionata dalla comunione con Dio, perciò, senza sforzare nessuna verità, quando non vi è comunione con i fratelli, la ragione originale è che questi non hanno un cammino giusto. Anche questo aspetto deve essere messo a fuoco. L'Apostolo Giovanni non ha detto che i figli di Dio che non hanno comunione con tutti gli altri non hanno comunione con Dio, perché allora, cominciando dall'Apostolo Paolo e terminando con Gesù, dato che avevano nemici, dobbiamo concludere che avevano un cammino sbagliato, ma Giovanni sta dicendo che il rapporto fraterno è condizionato dal nostro cammino nell'amore. Leggendo la prima lettera di Giovanni, l'Apostolo associa la luce all'amore, perciò la mancanza di amore, che Giovanni associa alle tenebre, cioè all'odio, impedisce la comunione e l'armonia fraterna. In effetti, molto raramente i credenti che si professano cristiani sono divisi per ragioni dottrinali, ma se lo Spirito Santo illuminasse i segreti dei cuori, si scoprirebbe che la vera ragione di tante separazioni sono il risultato di vecchi rancori, di pesanti amarezze, di frequenti liti, di volute ripicche. Questa è la grande macchia sulla veste della Chiesa, che spesso una seria e intensa persecuzione aiuta a lavare. In conclusione, le ragioni che spingono i figli di Dio a non andare d'accordo possono essere molte, ma il motivo dell'amore, dell'ignoranza e dell'odio sono certamente tra i primi. Questi aspetti non sempre si possono identificare chiaramente, perché, come per altre verità, spesso e volentieri i tre aspetti si intrecciano a tal punto che difficilmente si può parlare di uno o dell'altro. E una conclusione è questa, che può anche non soddisfare alcuni, dato che il problema rimane, ma può dare serenità a chi ha il problema della comunione fraterna, anche perché verrà il giorno, come dice il profeta Isaia, che l'uno dirà «Io sono dell'Eterno», l'altro si chiamerà col nome di Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano «dell'Eterno», Isaia 44:5. Per chi ha orecchi e occhi, la vera Chiesa è una, anche se si esprime in modo diversi. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi, e state in pace gli uni con gli altri. Marco 10:10. Dicembre 2005. Ellero.